Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Fermata Provvisoria, il contributo musicale del martedì di Fuscico Factory. Io sono Carlotta e oggi ospiti a Radio Città Fuscico abbiamo una band ligure nata da poco, i Moka. Il gruppo musicale, originario di La Spezia, ha lanciato finora solo 4 singoli, ma già contano più di 30.000 ascoltatori settimanali su Spotify. Restate in ascolto per conoscere meglio la nuova band emergente del panorama indie italiano e nel frattempo godetevi il loro ultimo singolo, Bailam. Te ne sei accorta che il caso non è un segreto mai. Ho provato con la, non c'è riuscita nemmeno lei, né a combattere la noia, né a placare le mie necessità. Ti ricordi quella notte che è passata, con l'incanto del silenzio, rivivo la nostalgia delle parole. Strappavano le labbra come nei giorni di pensieri. Il dubbio che mi viene di se ancora capace ad amare, se amore è solamente un vuoto da riempire con la gente. Scelgo te. Te lo ricordi che un dito non ti nasconde più davanti a me. Te ne sei accorta che non so più chi sono io o chi sei tu. Di due volti una moneta, il fardello dell'amore che così pesante da lanciarmi in volo, così leggero da affondarmi tra le braccia tue. Siamo al telefono con Davide Casalini, frontman dei Moka, giovane hit band italiana che il 18 ottobre ha pubblicato il singolo Bailam, già nelle playlist di Indie Italia e Scuola Indie di Spotify per la Clinica Dischi. Ciao Davide, benvenuto a Radio Città Fuscico. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fuscico, sono Davide. Grazie di essere qui. Allora, grazie a voi per la chiamata. Partiamo proprio con il vostro ultimo singolo, uscito qualche settimana fa, dal titolo Bailam. Parlacene un po'. Allora, Bailame è un brano, diciamo, d'amore. Bailame significa confusione totale, è un sinonimo di confusione totale, è un pezzo che parla, diciamo, dell'amore genuino e vero che si prova all'inizio delle relazioni, un mix di emozioni talmente avvolgente, diciamo, da far perdere quasi la coscienza di se stessi. Il 28 giugno di quest'anno è uscito invece il singolo dal titolo Relazionatore. Giusto? Sì. Che è andato molto bene, è stato anche questo inserito nella playlist Indie Italia ed è rimasto stabile anche per qualche settimana in Viral 50 Italia. Sì. Ecco. Sì, diciamo che è stato il nostro pezzo fortunato questo. Esatto, non male per una band che finora ha lanciato solo dei singoli, giusto? Sì, abbiamo lanciato 4 singoli in totale, però 2, tra cui Relazionatore e Bailame, faranno parte del nostro disco. E uscirà il prossimo anno, inizio del prossimo anno, diciamo. Ok, quindi state già lavorando all'album? Sì, stiamo già lavorando, abbiamo praticamente ultimato, siamo a fare le ultime rifiniture e è quasi pronto per essere lanciato. A proposito di questo singolo, Relazionatore, ci spieghi un po' questa parola, cosa significa? Sì, Relazionatore è presa dal testo che cita il serpente relazionatore. E sarebbe praticamente un discorso, una pratica di autocoscienza che si fa in un momento, diciamo, dove non va tanto bene sotto diversi aspetti. E infatti il brano enfatizza proprio questo discorso che si fa tra se stessi di impossibilità e, diciamo, quando non si ha voglia nemmeno di reagire agli stimoli, si ha un periodo abbastanza negativo. E questo è quello di cui parla il relazionatore fondamentalmente. E sti cazzi e quegli altri, io non mi voglio più sentire solo, voglio radere i palazzi al suolo e vedere un po' che effetto fa. Non c'è niente di più vero di un sentimento che arriva dal petto e spesso devi soffocarlo al collo e fare in modo che non esca mai. Poi mi guardo in uno specchio e mi chiedo ma che cosa sono, se non rifletto ciò che brilla dentro nemmeno il sole mi illuminerà. Non mi va di uscire neanche di parlare, sono buono solo a dire non mi va. Sono mal disposto un po' in qualsiasi posto e calmo non ci riesco se non ci sei tu. Sono un pochino giù, giusto quel poco per non alzarmi più. La mattina mi sveglio, guardo il sole sul letto, viene voglia di pisciarci sopra, per fortuna giù di sotto il cesso e per stavolta se la scamperà. Già prevedo che dovrò soffrire tutte le nuove che dovrò sentire, sono avvolto fra le fredde spire del serpente relazionatore. E non molla, mi prosciuga l'energia che tenevo da parte per le tragiche giornate storte, insomma quelle come questa qua. E non mi va di uscire neanche di parlare, sono buono solo a dire non mi va. Sono mal disposto, poi in qualsiasi posto e calmo non ci riesco se non ci sei tu. Sono un pochino giù, giusto quel poco per non alzar. La vita che vola sicura e leggera sulle ali di una mosca nera, si è fermata sopra una merda, si è fermata ad aspettare te. Il mio braccio che vola chissà dove va, così non vedo neanche l'orologio. Non esiste tempo per il broncio, chissà domani che succederà. Non mi andrà di uscire neanche di parlare, sarò buono solo a dire non mi va. Sarò mal disposto, poi in qualsiasi posto calmo non ci riesco se non ci sei tu. Sarò un pochino giù, bailamme invece è una parola dialettale? No, bailamme è un sinonimo, se lo trovate anche sulla Treccani vuole dire proprio confusione totale, una baraonda. È un sinonimo. Pensavo avesse a che fare col ballare, visto che ho letto nella vostra bio. No, è una cosa, ce l'hanno chiesto già più volte, però vuol dire proprio, non è collegata al ballo, insomma, ma è direttamente collegata a un sinonimo che vorrebbe dire confusione totale, baraonda. Ah, ho capito. Siete in sei voi, perciò immagino che ognuno di voi venga da esperienze diverse, approcci diversi alla musica. Ti chiedo, da dove parte l'idea musicale di un vostro brano? Allora, innanzitutto noi essendo in sei, come hai detto, abbiamo tutti un background musicale abbastanza variegato e veniamo tutti da esperienze passate con altre band. Io ad esempio ho iniziato a cantare giusto un anno e mezzo fa, prima facevo il batterista. Comunque i pezzi nascono fondamentalmente un po' in sala prove, un po' nascono diciamo anche da me insieme al pianista, che magari si butta giù due cose piano e voce, magari il chitarrista porta un pezzo con una strofa, un ritornello, e poi comunque si lavora tutti insieme, si fa un lavoro a 360 gradi in sala prove, e poi facciamo le nostre preproduzioni registrate da noi e poi andiamo a rifinirle ulteriormente in studio per poi pubblicarle. Insomma, questa è la dinamica di un pezzo mocca. E cosa vi piace ascoltare nella quotidianità? C'è un gruppo musicale straniero, italiano, che apprezzate particolarmente, a cui vi ispirate? Sì, noi come ti dicevo prima ascoltiamo veramente, veramente di tutto. C'è chi ascolta la classica, chi ascolta il blues, chi ascolta il folk, chi ascolta l'elettronica. Comunque non siamo, cioè non prediligiamo uno stile particolare. Comunque, se possiamo dire un nome, vai. Su tutti i Rolling Stones. Ah, okay. Che loro sono le nostre pietre miliari. Ho letto nella vostra e-card, almeno così vi definiscono, una hit band italiana, hit pop. In realtà non so se vi piacciono le etichette, però voi in che categoria diciamo vi orientate? Sì, magari è un po' troppo scontato dire hip hop, indie, però comunque facendo uso di molte macchine come sintetizzatori e strumenti a sequenza, strumenti elettronici, possiamo definirci più un synth pop. È già possibile ascoltarvi live da qualche parte? Sì, allora, adesso abbiamo un appuntamento a Milano, al Rock and Roll Club, il 13 di dicembre. Poi abbiamo un capodanno qua dalle nostre parti, a Sardana, e poi resteremo fermi fino all'uscita del disco, che poi partirà con il tour, e poi si andrà un po' in giro per l'Italia a far sentire le nostre canzoni. Va bene, allora grazie Davide, l'intervista è finita, e in bocca al lupo per i vostri futuri progetti e ovviamente per il tour, l'album. Vi ringrazio, grazie mille e vi ringrazio per la chiamata, è stato un piacere. Ciao ragazzi! I soldi dell'affitto e la pasta sotto i denti, ricaptami la pioggia sulla pelle. Ricolloca il soffitto e le pareti ai loro versi, ricordami soltanto cose belle. Poi riempimi il bicchiere, poi bussami sul petto, ricordami che in fondo siamo stelle. E brilliamo. È stato un giorno limpido, a metabolismo epatico, non sono mica un tossico. Di gusto riso in bilico, tra straordinario e tragico, non sono mica cinico. Riportami quel bene che avrei voluto dare, non sono riuscito mai a dimostrare. Poi taglia la cipolla, sedano e carote, metà cottura lenta per sfumare. Io mi chiedo da dove vengo, mi chiedono di questo e di quello, tante domande senza ritegno, mi sono mostrato con un disegno, sono un cantastico, no ma no, vuoi sentirti con me? Ballerò, vuoi che venga da te? Uscirò, vuoi che venga in pista? Ballerò, oh yeah. È stato un giorno limpido, a metabolismo epatico,